Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medios. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Non siamo andati in onda il giorno di Natale, comunque noi di Mebius vi facciamo ancora tanti auguri, però in fondo sono passate solo poche ore, quindi in questa puntata del Natale si parlerà più volte. Benvenuti e benvenute, ascoltiamo i titoli. Antropologia del Natale. Simboli, tradizioni, regali o niente di tutto questo. La festa più importante dell'anno, che non è sempre alla fine di dicembre, fra i popoli del mondo. Pianeti tra le note. Un saggio assegna ad ogni corpo celeste la sua melodia. Seeds for Needs, ovvero trovare semi e colture alternative da sperimentare in Etiopia per far fronte ai cambiamenti climatici. Il misterioso caso delle lettere tra Newton e Bach. Per tutto l'anno abbiamo parlato di Charles Darwin. È giunta l'ora di parlare della moglie, la signora Emma. Merry Christmas, surfers of Waikiki. Merry Christmas. Angelo Lucano, buonasera. Buonasera a lei. Docente di antropologia culturale all'Università della Basilicata e qui però io le chiederò cose che riguardano il Natale, che è un evento, un rituale che certamente fa parte degli studi antropologici. Questa cosa di avere un momento dell'anno in cui si fanno dei doni e in particolare ai bambini, com'è che nasce insomma in generale nel pianeta? Dov'è che la troviamo? C'è un po' ovunque. Intanto diciamo subito che questa dei doni ai bambini è un'usanza pressoché universale, perché tutte le religioni, sia quelle organizzate che anche quelle precedenti a queste grandi religioni, hanno avuto sempre un particolare momento di attenzione verso i bambini legato alla mitologia, e nel momento in cui vengono le religioni organizzate, perché noi chiamiamo le religioni storiche, sì, allora sappiamo anche il nome del personaggio divino di riferimento, o anche personaggio non divino, come è il caso di Babbo Natale, come nostro, può diciamo immaginare, il nostro, e quindi continua la tradizione. Diciamo che la necessità di donare ai bambini è una necessità universale e direi anche primordiale. Quindi c'è sempre un personaggio che è colui che dona o al quale sono legati i rituali del dono e che riguardano i bambini. Ecco, però Lucano, va bene, Babbo Natale ormai è qualcosa che investe tutta l'Europa, tutto il Nord America, tutto il Sud America, anche veniamo diciamo al nostro, chiamiamolo così, Babbo Natale. Qui le origini quali sono? Gli antenati illustri di Babbo Natale, noi li troviamo già presso l'Iran, nella religione di Zoroastro, dove c'era Aurangzeb, il portatore del bene, il principe della luce, che regalava, portava dei doni ai bambini. Poi nel mondo celtico è il dio della luce, Belenus, che dà i doni ai bambini. Il nostro Babbo Natale, in realtà, quando nasce non ha questo nome. Nasce nei Paesi Bassi e nel Belgio col nome di Sinterklaas, che vuol dire compleanno di San Nicola, perché questo personaggio è legato molto al famoso vescovo di Mira della Turchia, che noi conosciamo come San Nicola di Bari. Nei Paesi Bassi viene concepito un San Nicola che arriva dalla Spagna con i suoi aiutanti, e i quali scendono nei cammini per dare il dono ai bambini. Però lui, il santo, cioè, cavalca un cavallo bianco, raramente una mula, ma sempre bianca. Ecco, quindi Sinterklaas, da cui deriva poi anche sul piano filologico Santa Claus, nasce nel Belgio e siamo intorno al 1300. Poi successivamente, diciamo che nel 1600, il personaggio che dona ai bambini, quindi non Santa Claus, lo troviamo in Inghilterra, e qui si tratta di un uomo con la barba coperto da un mantello verde orlato di bianco, E questa descrizione e a questa origine ci è data anche dal grande scrittore Dickens nel suo famoso racconto Il canto di Natale. Ecco, questo è un secondo punto. Poi un terzo punto noi lo troviamo in USA, negli Stati Uniti, dove arriva il personaggio generoso nel 1600, ma non è San Nicola. Ecco, è un corpulento marinaio olandese con mantello verde e pipa in bocca. Ecco, e questo è quello che porta. Quindi abbiamo una prima laicizzazione del personaggio. Certo. E laicizzazione che viene confermata nel 1823, quando Mr. Moore pubblica sul giornale di Troy, nello stato di New York, una serie di sonetti che inneggiano ad un signore tarchiato con otto renne, una delle quali c'è un nome molto simpatico, ovviamente Fulmine, Ballerina, Donnola, Freccia, Cometa, Cupido, Saltarello e Donato. E qui ci siamo, no? Ormai siamo ai nostri tempi. E questo signore corpulento è vestito di rosso, un mantello rosso, quindi non più verde come era inizialmente, ma le prime cartoline, diciamo, in cui appare questo signore sempre in slitta in abito rosso e appaiono nel 1885 e vengono disegnate da un certo Thomas Nest. Nel 1902 il famoso autore del Mago di Oz, si ricorda quel film, ridisegna proprio nel senso tecnico il personaggio e gli mette una barba, una bella barba lunga, quindi si rifà a San Nicola. Quindi un percorso lunghissimo con tracce e segni che si vedono andando indietro anche di centinaia, di qualche migliaio di anni, certo. E poi a un certo momento si stabilizza in questa figura. Certo. Però si stabilizza recentemente, in fondo. Ecco, ma la diffusione, diciamo, planetaria di questo personaggio, ormai con i pantaloni rossi, giacca rossa orlata di bianco, si ha, come si sa, dal 1931, quando la Coca-Cola, per fare la pubblicità natalizia, lo prende come logo del proprio prodotto e quindi grazie a questo il Babbo Natale nella nuova versione ultima, quindi laica, sbarca anche in Europa. Ecco, quando Babbo Natale, grazie alla Coca-Cola, arriva in Europa, anche la Russia viene a conoscere questa nuova bibita, questo nuovo marchio, e ovviamente non consente l'ingresso della Coca-Cola nell'Unione Sovietica, sappiamo che è soltanto da qualche decennio che c'è in Russia questa coca, questa bevanda, però anche l'Unione Sovietica ha i suoi bambini che vogliono dei doni e vogliono che qualcuno, un personaggio specifico, glieli porti. E allora ecco che viene coniato nell'Unione Sovietica l'immagine di Ded Moroz, cioè nonno gelo. Ded Moroz derivava da un demone che si chiama Morozko, che gelava le persone. Lui si era unito con la primavera, Vesna, dalla quale nasce una bambina, Snegoruchka, spero di aver pronunciato bene, Snegoruchka, con la quale egli gira tutta la Russia portando i doni al bambino San Nicola. Professor Lucano, grazie per questo viaggio rapido ma intensissimo nella storia di Babbo Natale. Grazie a voi e buon Natale a lei, alla redazione e a tutti i bambini che ci ascoltano. Come sarà il traffico in queste giornate sulle strade? Sentiamo Strade in diretta. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Si può fare un quiz sull'armadillo? Sì, lo faremo fra poco. Eccolo qua, l'armadillo quiz. È vero che l'armadillo è l'unico mammifero che può dar vita a gemelli identici, cioè, come si dice scientificamente, gemelli monozigoti? Prima risposta, no, è esattamente il contrario. L'armadillo è l'unico mammifero che non solo non dà vita a gemelli monozigoti, ma nemmeno a gemelli, perché non si conosce un solo caso di femmina di armadillo che abbia partorito due cuccioli. Ci scriverete contrario. Due, seconda possibilità. Sempre no, ma la caratteristica degli armadilli è che possono generare gemelli solo e sempre dopo un primo parto normale, diciamo così. Ci scriverete normale. Terza e ultima possibile risposta, l'armadillo può generare addirittura 4 gemelli monozigoti ed è l'unico mammifero che può farlo. Ci scriverete 4. Dove all'SMS 349-238-6666 si vince il libro questa settimana Viaggio di un naturalista intorno al mondo di Charles Darwin, edito da Feltrinelli, e non di Charles Darwin, ma della moglie, parleremo fra poco. In collaborazione con IBS.it. Che alla luna si possa abbinare la sonata per pianoforte di Beethoven, Chiaro di luna, questo mi pare immediato. Ma per Venere si apre il dibattito. Ed è di ciò che vi racconterà ora Chiara Albicocco con Pianeti fra le note, che è un libro uscito recentemente. Chiaro di luna, la sonata per pianoforte di Ludwig van Beethoven ci introduce al viaggio cosmico di oggi. È un libro, quello di cui vogliamo parlarvi, un libro edito dalla Springer, Pianeti tra le note, appunti di un astronomo divulgatore. E questo astronomo divulgatore è Angelo Adamo ed è qui con noi questa sera. Buonasera Adamo. Buonasera a tutti voi, salve. Devo proprio dire che il suo libro è un bel regalo di Natale, perché è davvero ricco di molti spunti, soprattutto letterari, è pieno di disegni, ma anche di caricature, di fumetti disegnati da lei, è così Adamo? Assolutamente sì, faccio anche l'illustratore, quindi ho pensato bene di unire un po' tutte le miniature per divertirmi a confezionare qualcosa di diverso, ed eccolo qua. Ecco, infatti all'interno del libro ci sono questi disegni, ma anche spartiti musicali, che ci servono per descrivere, se vogliamo dire così, i pianeti. E la sonata che abbiamo appena ascoltato di Beethoven, lei l'ha scelta per descrivere appunto il carattere della Luna. Allora, vogliamo partire da qui, che anche se il 2009 volge al termine, questo è stato veramente il suo anno? Assolutamente sì, perché quest'anno festeggiamo i 40 anni da che siamo andati sulla Luna. Dico, siamo andati davvero, Molti pensano che non ci abbiamo mai messo piede, che è stata tutta una finzione. Invece posso confermarvelo, siamo andati sul nostro satellite, abbiamo condotto e conduciamo ancora degli esperimenti sulla sua superficie. E siamo indecisi se andarci ancora o sarebbe meglio virare altrove. Difatti ci sono pareri discordanti, al momento comunque godiamo il fatto di esserci stati, certo. Stiamo ancora analizzando quello che abbiamo preso, ovvero rocce lunare e quant'altro, e comunque ci è servito tantissimo andare lì per cambiare punto di vista sulla nostra posizione nel cosmo, il nostro ruolo nel cosmo, quindi è stato un momento veramente importante, sottolineato da tantissime opere anche di carattere letterario. Io ne cito qualcuna, opera di Ayn Lane, grande scrittore di fantascienza, ma anche opera di Calvino, e la sonata di Beethoven, l'allegretto che si sente nella sonata di Beethoven mi sì, serve, quello che per abbiamo esempio, appena ascoltato. Infatti. Precisamente, serve proprio per sottolineare le note scherzose, stavolta scritte, non suonate, da Calvino quando parla della distanza della Luna, un problema il carattere fisico, ovvero che noi stiamo perdendo il nostro satellite che si sta allontanando progressivamente. Questa cosa era nota a Calvino, che era onnivoro, divorava un po' di tutto, dalla scienza alla storia e quant'altro, e allora da onnivoro che era si è fatto ispirare anche da questa caratteristica fisica del nostro sistema Terra-Luna e ha confezionato sulla scorta di questi dati uno splendido scritto che compare nelle sue Cosmic Comic, La distanza della Luna. Quindi mi sembrava assolutamente impossibile scindere le due cose, la narrazione di Calvino con la narrazione di Beethoven. Queste note epiche introducono il nostro arrivo su Marte, la terra promessa, la prossima meta dell'uomo. Ecco, lei, Adamo, che brano ha scelto per descriverci il carattere marziano? Questo brano, queste note tremende sono le note del brano Mars, The Bringer of War, ovvero Marte, il portatore di guerra, composte da Gustav Holst, grande compositore del Novecento, il quale si è fatto ispirare dai temi dell'astronomia di sicuro, ma soprattutto dai temi dell'astrologia. In ogni caso, astrologia o astronomia che sia, all'epoca, fino a fine 800, inizio del Novecento, si pensava che Marte fosse abitato dai marziani, cosa che sappiamo in qualche modo ancora sopravvive nella testa di di molti, marziani che dovevano essere assolutamente cattivi, dovevano essere un popolo molto strano, affaticato dalle condizioni fisiche che lì vi sono, perché appariva chiaro come Marte dovesse essere, a causa del suo colore rossastro, connettibile in qualche modo al sangue, dovesse essere un pianeta morente. Allora immagini questi marziani che ci guardano, vedono i loro vicini avere un pianeta così bello, strapieno di aria e soprattutto di acqua, certo. E sono lì a sbavare letteralmente, perché devono conquistare questo nostro pianeta. Non appena raggiungono un livello tecnologico comparabile con il nostro, se non addirittura superiore, arrivano da ste parti e seminano morte e distruzione. Questo perché? Perché all'epoca comunque si sapeva benissimo che cosa aspettarsi dagli uomini. Ne erano state combattute moltissime guerre, altre ne stavano arrivando, era nell'aria, insomma, la prima guerra mondiale, che poi verrà seguita appunto dalla seconda. Quindi c'era comunque questa sensazione di morte, questa sensazione di guerra, però non si teneva tanto l'uomo quanto l'arrivo del terrore dall'alto. E guarda caso, in effetti dall'alto arriveranno le V2 tedesche, arriveranno prima gli aeroplani e poi le V2 tedesche, e sottolineare appunto come non era tanto la terraferma lo scenario dal quale attendere il pericolo, ma era invece il cielo. Però saranno ancora una volta gli uomini, non i marziani. Ci sono delle bellissime illustrazioni in questo capitolo dedicato a Marte, in cui c'è il suo Ulisse celeste, che Adamo è un po' il suo alter ego abbastanza autobiografico, magari, che spicca un volo quasi come se fosse un salto in lungo da un pianeta all'altro. E in effetti è proprio un salto in lungo, ed in effetti è proprio un Ulisse celeste autobiografico. Sono sempre stato colpito, come molti, dalla figura dell'Ulisse omerico e poi da quello dantesco, che sfida sempre tutto e tutti per andare a conoscere ciò che giace più in là. Però comunque l'atto ginnico col quale questo mio Ulisse va da un pianeta all'altro, in qualche modo penso sia stato influenzato dal fatto che da giovane mi sono dilettato a lungo di atletica, con l'atletica leggera, correvo i 200 e 400, il salto in lungo autobiografico al 100%, oserei dire. Assolutamente sì, il salto in lungo qualche volta l'ho provato, comunque l'ho visto fare tante volte, e quindi questo mi è servito, mi ha impresso nella testa le immagini, sensazioni che ho cercato di portare assieme a tutte le altre cose che amo anche all'interno di questo libro. Questi suoni, queste melodie dolci, quasi dal carattere fiabesco, ci portano su Venere. Lei ha scelto quest'opera, sempre di Gustav Holst, La Venere, portatrice di pace. Come mai? Beh, sì, in generale Gustav Holst fa quasi da padrone in questo libro, perché ha scritto una suite, The Planets, totalmente dedicata a quelli che erano i pianeti conosciuti all'epoca. E sto parlando appunto dei primi del Novecento, per cui per esempio non si sapeva nulla di Plutone, che verrà integrato successivamente da Colin Matthews come un'altra composizione. Venere è sì la portatrice di pace, riflette quello che era il carattere appunto astrologico che ispirò tanto il nostro compositore, ma che trovo sia assolutamente inadeguato a spiegare le reali caratteristiche di questo pianeta. Mentre con Marte troviamo che quel carattere così belligerante in qualche modo viene rispecchiato anche dalla inabitabilità del pianeta. Non è d'accordo sul carattere fiabesco? Non sono assolutamente d'accordo con il carattere fiabesco, perché tutti quanti sappiamo che Venere da sempre è stata connessa all'amore carnale, all'amore sessuale, e sappiamo oggi sappiamo che questo pianeta non ci amerebbe. La veste che ci fa pensare a Venere come una bellissima donna che ci attrae, questa veste stupenda di nubi che la ricopre totalmente, facendoci desiderare di sapere cosa si nasconde sotto, ha fatto da sempre teorizzare che vi fosse appunto un mondo fatato, un mondo pieno di vegetazioni, di acque, di animali strani, e questo è stato vero fino agli anni 50. Addirittura Asimov, che ha scritto tutta una serie di racconti ambientati sui vari pianeti del sistema solare, la dipingeva proprio così, con toni affascinati e affascinanti. In realtà quando siamo andati lì con le sonde abbiamo scoperto che è proprio un inferno tremendo, assolutamente inadatto ad ospitare la nostra forma di vita. Vi è una pressione incredibile che ci stritolerebbe, pressione di questa atmosfera che è 100 volte circa più densa della nostra atmosfera, vi è un calore di circa 500 gradi centigradi che ci scioglierebbe, e in ogni caso l'atmosfera è addirittura irrespirabile. Quindi assolutamente non è un posto dove andare in vacanza, evitatelo. Ecco, senta Adamo, visto che lei ha anche musicista, potrebbe riscriverla la Venere. Ma perché no, perché no? Il mio prossimo disco potrebbe essere proprio questo, un tentativo di ridare la dimensione giusta ai vari pianeti. L'ultimo mio disco è di jazz, quindi non c'entra niente finalmente con l'astronomia, ogni tanto me ne libero, però il prossimo potrebbe vedermi tornare sull'argomento, chi lo sa. Ecco, questo nostro viaggio radiofonico potrebbe durare, ma purtroppo non possiamo coprire tutte le distanze del sistema solare. Il libro in realtà si compone di un sacco di pianeti, lune e corpi celesti, però purtroppo non possiamo prenderli tutti in rassegna. Allora mi resta soltanto il tempo per ricordare il titolo, Pianeti tra le note, appunti di un astronomo divulgatore, edizioni Springer. Grazie mille Adamo e aspettiamo il CD. Grazie a voi tutti, arrivederci. Una pausa adesso e poi restiamo sempre in tema di rapporti fra scienza e musica, perché vi parleremo di Newton e Bach. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. I semi, quelli che si buttano nella terra e sono così determinanti per la nostra vita. Ma i semi sono diventati un problema grande, per il quale si deve pensare a grandi soluzioni, che vi racconta Barbara Gallavotti. Ogni anno la Banca Mondiale organizza un'iniziativa che si chiama Development Marketplace, cioè più o meno Fiera dello Sviluppo. Nell'ambito di questa iniziativa vengono selezionati e finanziati alcuni progetti relativi a un tema proposto di anno in anno. Quest'anno, ad esempio, si chiedeva di concorrere con progetti riguardo a come rispondere alla sfida dei cambiamenti climatici. Sono giunte 1.755 domande e fra le 26 vincitrici vi è stata la proposta di Bioversity International, l'agenzia internazionale che si occupa di problemi alimentari e che è stata più volte nostra ospite qui a Mebius. Il vincitore del progetto, in particolare, è il ricercatore mauriziano Mohamed Hassan Dullo, che è qui con noi. Buonasera. Sì, buonasera. Intanto, congratulazioni. Il vostro progetto, che richiede un finanziamento da 200.000 euro, è stato approvato ed è pensato in particolare per l'Etiopia. Ci racconta di cosa si tratta? Sì, sicuro. A causa del cambiamento climatico, l'Etiopia diventerà sempre più calda e arida. Le varietà locali utilizzate dai contadini più poveri nel paese non saranno in grado di garantire il raccolto in futuro. Allora, il nostro progetto servirà ad identificare nuove varietà locali delle colture più importanti attualmente conservate nelle banche di germoplasma in Etiopia. Lo faremo tramite un sistema di informazione geografica, dei modelli predittivi del cambiamento climatico e anche in modelli di valutazione partecipata delle colture introdotte. Inoltre, il progetto studierà come i semi sono distribuiti localmente e andremo a sperimentare nuovi modi per garantire l'accesso delle donne alle semi delle nuove varietà, così che la sicurezza alimentare sia garantita anche a fronte del cambiamento climatico. Ecco, ricordo rapidamente che questo progetto è considerato un po' figlio di un altro studio di cui abbiamo parlato qui a Mebius con il suo collega Andy Jarvis. E lo studio di Jarvis ha lo scopo di creare una mappa della coltura delle varie parti del mondo per capire come reagiranno ai cambiamenti climatici. Quindi la ricerca che lei ha proposto alla Banca Mondiale in un certo senso compie un passo in più, perché si propone di trovare soluzioni a problemi che la mappa di Jarvis ha messo in luce. Lei ha citato in particolar modo la collaborazione con le donne locali. Perché le donne? Infatti questo progetto è una delle possibili applicazioni pratiche degli strumenti messi a punto dal mio collega Andy Jarvis per sapere quali varietà potranno crescere e dove, e a seconda degli effetti del cambiamento climatico. Noi abbiamo scelto di concentrarsi sulle donne contadine più povere perché esse hanno un ruolo importantissimo non solo nella preparazione del cibo e nella sua coltivazione, ma anche come custodi delle varietà locali. Sono loro che hanno spesso l'ultima parola su quali varietà coltivare per assicurare il benessere della famiglia. Nonostante questo, le donne continuano ad essere tenute da parte nei processi decisionali e spesso hanno difficoltà nel mantenere sia il reddito che la proprietà della terra. Stiamo inoltre sviluppando progetti simili in altri paesi anche, come l'India, Papua New Guinea ed anche il Mozambico, per esempio. Quindi recuperare colture che adesso non vengono utilizzate per sostituirle a colture che sono utilizzate ma che verranno messe in crisi dai cambiamenti climatici. Nel vostro progetto lei ha citato le banche del germoplasma, le famose banche dei semi che hanno un ruolo centrale. Sono banche che hanno avuto anche delle contestazioni perché qualcuno si è chiesto quale sarà la loro reale utilità nel fronteggiare le sfide dell'ambiente nei prossimi anni. Voi proponete una delle applicazioni più pratiche che io personalmente abbia mai sentito a questo proposito. Lei cosa pensa del futuro delle banche dei semi? Sì, le banche di germoplasma, conosciute anche come banche di semi, hanno un ruolo importante da giocare nella conservazione della biodiversità, in quanto conservano la nostra possibilità di adattare l'agricoltura a cambiamenti climatici. Sono i luoghi che conserva la diversità genetica che serve agli stessi agricoltori a trovare varietà sempre più resistenti. Purtroppo la loro funzione non è ben conosciuta e spesso è trascurata dai governi. Gli effetti dei cambiamenti climatici stanno facendo emergere la necessità di un uso pratico delle risorse che sono nelle banche dei semi. Non solo infatti esse servono a salvare molte varietà all'estinzione, ma sono anche la fonte della materia prima genetica per selezionare nuove varietà che possono adattarsi al cambiamento climatico. Molte delle soluzioni ai problemi legati al cambiamento climatico possono essere trovate in queste banche. Io dico che allora dobbiamo conservarle e utilizzarle meglio. Grazie Mohamed Hassan Dullo, buonasera. Buonasera. Si scrivevano, forse, Newton e Bach, perché sono stati ritrovati indizi di una corrispondenza fra i due. Attendibili, vediamo. Ve ne parla Maurizio Melis. Una delle abilità più straordinarie di Johann Sebastian Bach, classe 1685, era la sua capacità di improvvisare un arrangiamento polifonico a partire da una qualunque melodia. Una semplice sequenza di note veniva trasformata seduta stante nelle mani del grande organista e compositore in una complessa polifonia di voci, in quell'intreccio di contrapponti e canoni che hanno rese celebri le sue fughe. Le doti musicali di Bach, così come la sua capacità di rompere ad arte qualunque regola, testimoniano indiscutibilmente il marchio del genio. Ma allo stesso tempo Bach evolvette lungo l'arco della sua vita una sempre più raffinata consapevolezza delle regole dell'armonia, del fatto cioè che in fondo alla misteriosa capacità della musica di risvegliare le emozioni umane si celasse un nucleo di regole matematiche e fisiche. Bach, insomma, era capace di unire alla creatività un solido approccio analitico. Bisogna anche dire che persino le rockstar come Bach a quei tempi vivevano della generosità a fasi alterne dei mecenati. Fu così che Bach si trovò spesso a guadagnarsi la pagnotta accordando e riparando organi oltre che suonandoli. Un'attività che necessariamente lo mise in contatto con la nascente scienza acustica. Sono questi gli elementi che rendono plausibile un ipotetico carteggio che si sarebbe svolto tra Bach e Newton. I due erano contemporanei, pervenutoci, strana cosa, in italiano e ritrovato tra le carte di Franz Ottobar Bach, nipote appunto del musicista. Il carteggio si svolse tra il 4 settembre 1719 e il 29 aprile 1720, quando Newton era ormai piuttosto anziano, mentre Bach si trovava nel periodo di transizione tra la fase compositiva giovanile e la fase della maturità artistica, sebbene fosse già considerato un grande musicista. La corrispondenza si apre con una missiva di Bach che contatta Newton su suggerimento dell'organista Christian Friedrich Rolle, che di Newton era amico. A Newton Bach sottopose il cosiddetto problema del toc. Bach aveva notato che quanto più uno strumento emetteva un suono breve, tanto meno l'orecchio ne percepiva la tonalità. E al momento dell'attacco della nota percepiva invece un click oppure un toc se la nota emessa era bassa. Bach era estremamente sensibile a queste sfumature e ne era affascinato per le conseguenze che potevano avere sulla composizione della musica. Aveva per esempio già notato come la voce venisse leggermente alterata quando cantava mentre espirava il fumo della sua amata pipa e come la stessa cosa accadesse se, sempre espirando il fumo, suonava il flauto. Newton rispose alle domande di Bach con una lunga lettera in cui ipotizzava che il suono fosse parente in qualche modo della luce. Così come la luce bianca è formata da tutti i colori, il rumore, spiega nel carteggio lo scienziato, sarebbe formato da tutti i suoni, e su questo ci aveva azzeccato. Inoltre, continua Newton, quanto più un suono è breve, tanto più esso deve essere ricco di armoniche di ogni tipo e quindi più simile al rumore. Ecco perché si percepisce un toc oppure un click. Newton nella sua lettera parla addirittura di un principio di indeterminazione del suono che sembra decisamente un concetto troppo avanzato persino per il genio inglese. Qualcosa che poteva emergere non meno di qualche decina di anni dopo, più o meno gli anni in cui era vivo, guarda caso, il nipote Franz, tra le cui carte fu ritrovata la corrispondenza tra i due geni. Discrepanze come queste, si parla persino di un clarinetto che ai tempi di Bach non esisteva, fanno dubitare non poco della originalità dello scambio epistolare, nel corso del quale i due si confortano sui rapporti tra matematica e armonia, sulla composizione spettrale del suono e sui segreti alla base della straordinaria musicalità degli strumenti di Stradivari e altro ancora. Che si tratti di un carteggio originale, insomma, lo si può escludere. In realtà però non sapremo mai se questa corrispondenza sia totalmente frutto dell'invenzione o sia stata semplicemente rimaneggiata in qualche modo dal nipote di Bach. A quei tempi si usava attribuire le proprie teorie a grandi nomi del passato per dare loro forza e non c'era il diritto d'autore a tutelare le opere di ingegno. Ma certo da questo fantomatico scambio di opinioni fra colossi della cultura emerge un quadro chiaro delle concezioni dell'epoca a proposito delle millenarie origini dell'armonia in anni in cui la musica metteva le prime radici in nuovi territori che la rivoluzione scientifica aveva appena iniziato ad esplorare. Torniamo al traffico, vediamo se qualcosa è cambiato. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione dell'armadillo quiz, ve lo ricordate? È vero che l'armadillo è l'unico mammifero che può dar vita a gemelli identici, cioè come si dice appunto scientificamente gemelli monozigoti? La risposta giusta era la terza, molto semplice, ed è sì, addirittura può dare vita a 4 gemelli monozigoti, in questo è l'unico mammifero sul pianeta che può fare questo, è sorprendente, eccezionale. E io già qua in studio, Stefano Morigi, filosofo della scienza, buonasera Stefano. Buonasera Federico. E soprattutto ho al telefono Chiara Ceci, buonasera Chiara. Buonasera Federico. Divulgatrice di scienza e soprattutto in questi ultimi mesi, in questi ultimi 2 anni direi, curatrice della mostra su Charles Darwin, che è stata prima a Roma, poi a Milano, adesso è già a Bari? Sì, sì, è Bari. Abbiamo aperto il 24 novembre e fino al 15 febbraio saremo al Castello Normanno Svevo. Con Charles Darwin l'armadillo ha un sacco di relazioni, no? Sì, infatti anche in mostra abbiamo un armadillo, sia a Roma che a Milano e anche a Bari, abbiamo anche un armadillo vivo, perché Darwin vedeva gli animali vivi in Patagonia e così anche il visitatore può vedere l'armadillo e fare gli stessi ragionamenti che fece Darwin guardando il suo antenato fossile, il gliptodonte, che sempre c'è in mostra. Perché dobbiamo ricordare che questa mostra, questo è molto interessante, no Stefano, è ripercorre il viaggio di Darwin, cioè far vedere come lui mano a mano ha incontrato i segni della sua scoperta. Questo è un modo interessante. Esatto, ripercorre il viaggio, ripercorre quello che Ernst Mayr chiamava il suo lungo ragionamento, no? Esatto. Lo accompagnò da prima a quello che venne poi quando lui tornò in Inghilterra. Dunque, l'armadillo è un animale stranissimo, devo dire, si appallottola continuamente, si nasconde, dopo 3 secondi si rifà vedere, poi si rinasconde, è buffissimo, però noi qui non siamo per parlare dell'armadillo e delle relazioni con Charles Darwin, ma di Emma Darwin, la signora Darwin. Come possiamo dare rapidamente, lo chiedo a te Stefano, una definizione di questo personaggio? Perché è tipicamente potrebbe rientrare nella famosa grande donna che sta dietro il grande uomo, il che è anche vero, Però è molto di più questo personaggio. È molto di più. Anzitutto ricorderei il suo cognome, che è significativo, Emma Wedgwood. Sì. Poi Darwin. È importante ricordarlo perché lei è rampolla di una delle più grandi famiglie d'Inghilterra, che tutti ricordano per le ceramiche che il nonno inventò letteralmente, riproducendo su scala industriale il mito classico nella ceramica e dando una forte impronta di educazione estetica a tutta la famiglia, di cui Emma era in qualche modo il prodotto. Lo è stato perché è stata educata alla musica, ha studiato pianoforte a Parigi con Chopin, perché ha dovuto fare il viaggio in Italia come tutti gli intellettuali, uso la parola volutamente al maschile, dell'epoca, un viaggio in Italia che fece accompagnata dal testo scritto da Goethe, il celeberrimo Viaggio in Italia, che in famiglia era arrivato perché l'aveva portato un noto amico di famiglia che era Samuel Taylor Coleridge. Chiara Ceci, c'è una relazione tra il padre di Emma e il padre di Darwin? Sì, il papà di Darwin, Robert, era molto amico di Josiah Wedgwood II, nonché suo cognato, perché Robert Darwin aveva sposato una Wedgwood, Susanna Wedgwood, che era la sorella più grande. Anche lei una grande intellettuale che aveva studiato con Coleridge, appunto, aveva studiato chimica col padre, a sua volta Josiah I, aveva fondato insieme al fratello Tom la società orticulticola inglese, era un'appassionata di scienze naturali, allevava colombi e forse ha passato questa passione a suo figlio, Charles. Quindi Emma e Charles erano cugini di primo grado, Charles figlio di Susanna e di Robert e invece Emma figlia di Josiah II. E si erano conosciuti giovanissimi. Sì, Emma era più grande di lui di circa 8 mesi e siccome i Darwin e gli Wedgwood passavano spesso del tempo insieme, non solo i Darwin andavano a trovare gli Wedgwood, ma anche andavano spesso in vacanze insieme, passavano anche le feste insieme. Il padre di Emma ha avuto, no Stefano, un'influenza nel determinare il grande viaggio di Darwin in qualche modo? Sai, Charles all'epoca era un, diciamo così, medico fallito, non aveva certo le doti per seguire la traccia del padre, che invece era un medico molto affermato, e quindi era destinato alla carriera di uomo di chiesa, di pastore, dove avrebbe potuto coltivare le sue passioni e al tempo stesso condurre una vita dignitosa. A quello sarebbe stato destinato. Gli capita l'opportunità di salire sul noto brigantino, ma il padre gli chiede almeno una ragione sufficiente perché possa dargli questo consenso, e Charles non la trova se non nel suo entusiasmo. Sarà appunto lo zio, cioè il papà di Emma, a convincere il un suocero, diciamo così, a dare questa opportunità a Charles, e dopo tutto non sorprende, visto che qualche anno prima aveva voluto che Emma stessa facesse il suo viaggio, che era il viaggio di formazione in Italia. Quindi, insomma, ad Emma e a suo padre dobbiamo molto per quanto riguarda la storia di Darwin. Chiara, il Natale in casa Darwin, visto che siamo appunto di questi tempi, doveva essere una cosa abbastanza... A me viene in mente Natale in casa Cuppiello di Edoardo De Filippo, dove succede di tutto, ma anche lì mi sa che succedeva di tutto, erano un po' in tanti. Sì, allora, se pensiamo ai Natali prima che Charles e Emma si sposano, quindi quando erano semplicemente dei ragazzi e si vedevano da cugini, in realtà quando i Natali erano passati non a casa Wedgwood ma a casa Darwin c'era poco da stare allegri, perché il signor Darwin, Robert Darwin, era una persona piuttosto burbera, era molto severo, tanto che Emma e le sue sorelle erano molto agitate ogni volta che dovevano andarci. Mentre se pensiamo ai Natali dopo che Charles e Emma si sposano, pensiamo a una famiglia molto numerosa. Ricordiamo che Charles e Emma hanno avuto 10 figli insieme, di cui 7 poi sono arrivati all'età adulta, che a sua volta vuol dire che avevano tantissimi nipoti, e questo dà di per sé l'idea di un Natale molto affollato. E io me lo immagino a casa Darwin, quindi a Down House a sud di Londra, in questi bellissimi giardini con anche tutti gli animali di famiglia che i bambini e Charles e Emma amavano. Si diceva sempre che Emma e i ragazzi erano i gattofili, mentre Charles era più cinofilo, aveva sempre dei cani che lo accompagnavano, oltre al suo pony e ai colombi che allevava, ovviamente. Insomma, questo personaggio Emma è un personaggio proprio a tutto tondo, è stata fondamentale per la vita di Darwin su tutti gli aspetti, sia quello affettivo, relazionale, proprio anche così di accompagnamento, che quello intellettuale. Possiamo vedere un po' di episodi che dimostrano questo ruolo che lei ha avuto? Sì, Certo, allora quando Charles torna dal viaggio per qualche anno rimane a vivere a Londra e continua a frequentare tutti i suoi amici e i suoi parenti, fra cui appunto anche i cugini Wedgwood. Nell'agosto del 38 iniziava a meditare sul fatto insomma sposarsi, non sposarsi, addirittura c'è un famoso foglio in cui lui proprio segna i pro e i contro del matrimonio, e interessante che fra i pro dice: sì, una moglie in fondo è utile perché mi tiene compagnia, mi cura in vecchiaia, è un bell'oggetto da guardare lì messo sul divano, in fondo è sempre meglio di un cane. Questo era il modo che aveva Charles di vedere la moglie, e poi in realtà si andrà a scegliere una che è totalmente diversa da questo stereotipo. Quindi Charles inizia a pensare davvero al matrimonio e in quel periodo inizia a frequentare sempre più spesso la famiglia Wedgwood, in modo sospetto diciamo, e frequenta sempre più Emma. Si frequentano, inizia a parlargli anche dei suoi dubbi, perché in quel momento Darwin sta elaborando le prime idee sulla teoria dell'evoluzione, e lo vediamo nei suoi taccuini, e ne parla ad Emma, fino a che chiede a sua cugina di sposarlo, e siamo alla fine del 38. Si sposeranno a gennaio del 39. La cosa bella è proprio vedere il Darwin anche romantico, perché in alcune lettere scritte prima di sposarsi a gennaio, Darwin dice a Emma: mia cara futura moglie, presto tu mi renderai più umano e mi insegnerai che c'è una felicità più grande che starsene qui a raccogliere fatti, a elaborare teorie. Quindi Darwin capisce che Emma regalerà a lui la serenità di una famiglia, che era quella che lui aveva sempre avuto, aveva trovato nella sua famiglia con le sue sorelle e suo padre, e anche nella famiglia di Emma, una famiglia acquisita. E poi ci sono molti altri episodi, un episodio che unisce particolarmente i coniugi purtroppo in un momento di lutto è quando la loro secondogenita, la piccola Annie, muore all'età di 10 anni, e Emma, che era in attesa di un altro figlio, non può accompagnarla dove invece l'accompagna Charles, cioè a fare delle cure da un medico che Charles reputava potesse aiutarla, e la bambina muore col padre presente mentre la madre era lontana. E possiamo vedere negli scambi fra i due come Charles cerchi conforto per la morte di questa bambina e per il dolore che lui prova nella moglie, e Emma lo stesso in lui. Chiara Ceci e Stefano Morigi, grazie per essere stati con noi questa sera. Dico solo che state lavorando a un progetto, un saggio appunto su Emma Darwin. Esatto. Grazie, ciao. Grazie, Chiara. A te, ciao. Ciao Federico. Allora, care ascoltatrici e cari ascoltatori, noi di Mebius speriamo che abbiate passato un buon Natale e che queste feste in un anno molto difficile siano state abbastanza serene. Quando ci sentiremo la prossima volta sarà già il 2010. Ancora auguri da noi tutti.